Topic of our Dhamma talk currently this late afternoon is the hindrances and overcoming the hindrances. Quindi l'argomento del discorso di questa sera sono gli ostacoli nella pratica e come superare questi ostacoli. Before going into this certain topic, let me repeat our motto for this retreat. Namely, the mind is difficult to control. Swiftly and lightly it moves and lands wherever it pleases. Quindi la mente è difficile da controllare, in modo leggero e veloce viaggia e atterra, diciamo, si ferma dove vuole. It is good to tame the mind, for a well-tamed mind brings happiness. È bene domare la mente, perché una mente ben domata o addestrata porta alla felicità. No, when during one's meditation practice, on occasion one finds how the mind is suddenly quickly changing from, let's say, happiness to unhappiness, from gladness to sadness, from liking to disliking to restlessness and suddenly the like, then one realizes this is very much in line with the second line, lightly and swiftly. It, namely, the mind moves and lands wherever it pleases. Durante la nostra pratica spesso ci troviamo di fronte a questa mente che cambia velocemente, quindi va da uno stato di felicità, uno stato di tristezza, da uno stato in cui qualcosa piace oppure qualcosa non piace, poi c'è l'irrequietezza e via di seguito. Allora verifichiamo abbastanza facilmente proprio quello che dice la seconda parte di questo nostro motto, che appunto la mente velocemente, leggermente va e si posa dove desidera. Mm-hmm. And suddenly when we experience how the mind can change quite suddenly quickly from one state to another, then we might suddenly agree to the first line of Dhammapada verse 35, namely, it is, or the mind is difficult to control. E quindi quando vediamo con quale facilità la mente cambia da uno stato all'altro, allora sicuramente concordiamo con la prima parte di questo verso 35 del Dhammapada, cioè che la mente effettivamente è difficile da controllare. And suddenly by now we all have gained suddenly some experience in observing the rising falling movement of the abdomen and other predominant objects, and would you say, is it easy to keep the mind on the rise and fall for 5 minutes without thinking or not? Quindi adesso già abbiamo sviluppato un pochino di esperienza nel osservare l'addome che si alza e si abbassa o altri oggetti predominanti, e possiamo dire che la mente facilmente rimane con l'oggetto di osservazione per più di 5 minuti o no? Without thinking. Sì, senza pensare. And obviously it's not easy to do. Non è così facile da fare. And so with this thing, the need to tame the mind, to control the mind, becomes pretty obvious. E quindi il bisogno di domare la mente, di controllare la mente, diventa abbastanza ovvio, evidente. Now, it is for most people that's, or for most human beings, that's when we are born into this world, we are born not only with wholesome mental states, but realistically speaking, with plenty of unwholesome mental states also present. È una cosa comune negli esseri umani quando vengono al mondo di entrare in questo mondo equipaggiati non solo con degli stati mentali salutari, ma con un'abbondanza di stati mentali non salutari. So if we were born with only wholesome mental states present, then there would be absolutely no need to be here. Se fossimo nati con solamente stati mentali salutari, presenti nella mente, allora non ci sarebbe nessun motivo per essere qui. No. Among those satna mental states, satna then tend to give human beings a hard time, we have the five hindrances. Tra quegli stati mentali che hanno la facoltà di rendere difficili le cose per le persone, ci sono i cosiddetti cinque ostacoli. And certainly those five hindrances consist of what? E quali sono questi cinque ostacoli? Anger, yes, as the second. And the first one? Aversion, anger falls under, comes under the same thing. Yeah, that's the second one. The first one, desire. Yes, saints desire. So this is not the hindrance of desire for pleasurable experiences. And then number two is ill will, the hindrance of aversion, ill will, anger, hatred. And then number three. No, don't comes at the end, and sloth and torpor is net number three. Yes, indeed. And satna then is number four. Le stiamo elencando e poi ve li dico tutti insieme, così. Oh, no, siamo I'll say the first three so far. So then, yeah. Allora, il primo è il desiderio di piaceri sensoriali, di soddisfazioni attraverso i sensi, praticamente, no? Di godere del piacere dei sensi. Il secondo, invece, è l'avversione, malevolenza, rabbia, eccetera, resistenza, questo è il secondo. Il terzo è la cosiddetta pigrizia o torpore, e siamo arrivati fin lì. Il quarto, sta chiedendo Dante? Yes, agitazione. L'agitazione o l'irrequietezza. And certain remorse. E so, anche in questo quarto rientra il rimorso. So, strictly speaking, that fourth hindrance consists of two parts, two mental states, namely restlessness, udicca, being one, and remorse, worry, being the other one, kukucha in pali. In realtà, appunto, questo quarto ostacolo è diviso in due parti. Il primo è l'agitazione o l'irrequietezza, la seconda parte è il rimorso. And then the last one. Scusate, c'è anche la preoccupazione. Irrequietezza, preoccupazione e agitazione. La seconda parte del quarto ostacolo è il rimorso. Rimorso. And the last one, as Satna mentioned by one of you, is skeptical doubt. E l'ultimo, il quinto, come qualcuno ha già detto, è il dubbio scettico. No. These hindrances tend to give retreatants a hard time. And so, do they come up only once or several times? Unfortunately, they come up for quite a number of times. Quindi questi cinque ostacoli danno parecchio filo da torcere ai meditanti e purtroppo sorgono in varie occasioni. Now, consider yourselves lucky, because you then have an opportunity to really get to know them. Consideratevi fortunati, perché avete l'occasione di conoscerli, effettivamente, conoscerli bene. Now, allow me to first state a couple of general aspects that apply to all five of those satna hindrances. And then what we shall do is, we'll go into one particular hindrance, namely the hindrance of restlessness and remorse, and explore this a bit more. Allora, prima dirò qualcosa in generale, che si riferisce a tutti e cinque questi ostacoli, e poi invece ci dedicheremo, entreremo nei dettagli riguardo a uno di questi ostacoli, e è precisamente l'irrequietezza. Now, the Pali term for hindrance is nivarana, And satna, this satna then, from an etymological point of view, consists of two parts, nis and vr. And satna that then literally means to a shroud or a screen. Allora, nella lingua Pali il termine per ostacoli è nivera, niverana, ed è etimologicamente composto da due parti. Primo è ni, sorry, what was nis? Nis and vr. Yeah. And ni was, ni stands for, sorry Bante, the first part? Yeah, no, instead the combined meaning. Ah, the combined, ok. E quindi il significato combinato di queste due parti è... A shroud. A shroud è come... A screen. A screen è uno schermo. Yeah. A shroud... Just leave it with it. Ok, è una cosa che copre, comunque, no? O come un telo, come la sindone, no? Che è coperta, quello... No. Shroud. All of Futner, those five hindrances... can be, are, as we've briefly mentioned, are unwholesome mental states, and suddenly they can also be classified as mental defilements, kilesas in the Pali scriptural language. Quindi tutti questi cinque ostacoli di cui abbiamo parlato sono degli stati mentali non salutari e possono anche essere considerati dei difetti mentali o degli inquinanti mentali. Nella lingua Pali si chiamano kilesa. No, those five hindrances come up not only in Satipatthana meditation or Vipassana meditation, but they also do come up regularly during the Samatha meditation, so the meditation of calm. E quindi questi cinque ostacoli sorgono non solo nella meditazione di Vipassana, delle Satipatthana, ma anche durante la meditazione di Samatha, cioè della tranquillità. Now, those certain hindrances literally hinder the attainment of mental calm when we practice samatha, and certainly they hinder the development or attainment of intuitive wisdom. E quindi questi ostacoli hanno proprio questa caratteristica di ostacolare il raggiungimento della calma, se si tratta di pratica di samatha, o il raggiungimento di quelle conoscenze intuitive, se invece si tratta della pratica di vipassana. Now, those five mental states unfortunately defile the mind, and so, on top of this, weaken our wisdom. Panyaya dubali karani is the Pali expression for this. Purtroppo questi cinque ostacoli inquinano la mente, in un certo senso, e impediscono alla saggezza di rivelarsi, di svilupparsi. Dante ha detto l'espressione in Pali che si riferisce a questo. Now, not only do they weaken wisdom and defile the mind, but they also obstruct the arising of their opposites, namely wholesome mental states. E quindi non solo indeboliscono lo svilupparsi della saggezza, ma contrastano, si oppongono allo sviluppo degli stati mentali che stanno, come dire, gli stati mentali contrari, cioè quelli salutari. They further prevent satna the arising of wisdom and destroy whatever wisdom has arisen. E quindi non solo rendono difficile lo svilupparsi della saggezza, ma distruggono la saggezza che è sorta. So those are, those hindrances are really not favorites are really not helpful qualities to our practice. E quindi questi ostacoli non sono delle qualità salutari o non sono di aiuto alla nostra pratica. And the term hindrance should be taken literally, they hinder the development of calm and certain of wisdom. In questo termine di ostacoli va preso letteralmente, perché davvero ostacolano lo sviluppo della calma oppure di queste intuizioni, diciamo, questi insights. And they further have been stated in the Samyutta Nikaya as being part of that heap of unwholesomeness, akusala arasi in the Pali scriptural language. Nel Samyutta Nikaya i cinque ostacoli sono indicati come facenti parte di questo mucchio di difetti mentali o di stati non salutari. The heap of unwholesome states. Unwholesome states. Mm-hmm. Now, there's another big disadvantage to the hindrances, namely that they disrupt the proper functioning of the mind. Un altro grosso svantaggio di questi cinque ostacoli è che in qualche modo influenzano negativamente il funzionamento della mente, cioè disturbano il funzionamento della mente. Now, the hindrances are not only not to be viewed as only bad, as unwholesome. There is one positive effect that we can attribute to them, namely, when a retreatant time and again has to battle the hindrances, then what happens to the mind? Quindi i cinque ostacoli non sono sempre da vedere così come cose negative, perché quando un meditante deve continuamente battagliare contro questi ostacoli che si presentano, cosa succede alla mente? Si è meglio. Si allena, it trains it, it's like okay. A training. Okay, mm-hmm. You can say that. Or he says you form some antibodies. Not so bad. Yes, very good. And that's it indeed. When in life, let's say we try to achieve something and one hindrance comes up, a second hindrance comes up, we have to deal with one hindrance after another. In the end, we get stronger. Mm. And that's certainly what happens in the meditation practice. So when the hindrances come up, they don't see them as only negative, but certainly rather see them as an opportunity to further strengthen your own mind. And certainly seen in that way, you have less of a problem. Anche nella vita quotidiana, quando si presentano gli ostacoli, noi dobbiamo affrontarli uno per uno per andare avanti, e questo ci rinforza. Allo stesso modo, quando si presentano gli ostacoli nella meditazione, la mente si rinforza, quindi vanno presi come un'opportunità, un'occasione per rinforzare la mente, e in questo modo non sono visti tanto come un problema. Now, if we think of the development of the mind over a longer period of time, if practice were just smooth sailing from start from day one until the end of the retreat, the mind really wouldn't have a chance to grow. But when the hindrances come up, in the face of the hindrances, one has to exert more effort, one has to be agile, one has to work with them, one has to learn ways and means to overcome them, and with this the mind becomes stronger. Perché se fosse tutto facile dall'inizio alla fine del ritiro, se fosse una navigazione tranquilla, diciamo, la mente non avrebbe nessuna occasione per crescere, non ci sarebbero momenti di crescita. Invece, dovendo affrontare questi ostacoli che si presentano, ecco che la mente deve trovare delle strategie per affrontarli, deve gestirli in un certo modo, e quindi cresce e si rinforza. The Buddha has given a number of beautiful similes for the five hindrances. and allow me state in somewhat in detail one, namely from the Anguttara Nikaya. Il Buddha ha dato una serie di ha offerto una serie di metafore o similitudini per spiegare i cinque ostacoli. Adesso Bhante ne indicherà uno preso dall'Anguttara Nikaya. No. The hindrance of sense desire is certainly being compared to water mixed with various colors. Quindi l'ostacolo del desiderio sensoriale è paragonato all'acqua in cui sono stati sciolti dei colori, delle tinte. The hindrance of ill will is compared to boiling water. L'ostacolo della malevolenza è paragonato all'acqua che bolle. No, the hindrance of sloth and torpor is compared to water covered by mosses. Quello invece della pigrizia e il torpore è paragonato a un'acqua torbida coperta di alghe. And certainly the double hindrance of restlessness and remorse is compared to the surface of the water which is whipped up by a strong gust of wind. Invece l'ostacolo dell'irrequietezza e del rimorso è paragonato ad un'acqua che è continuamente mossa da un forte vento. And certainly in terms of the last hindrance, namely skeptical doubt, this is compared to muddy and turbid water. Invece l'ultimo, quello del dubbio scettico, è paragonato a un'acqua piena di fango, torbida. No. In water that is mixed with various dyes, or that is boiling, that is covered by mosses, that is whipped up by the wind and muddy and turbid, can one easily see one's own reflection in it? You look at the surface of it, can you see reflection in it? Quindi con acque di questo tipo, cioè in cui è stato sciolto del colore o che sono coperte di alghe o acqua che bolle o piena di fango oppure mossa dal vento, è possibile vedere il proprio riflesso? Ci si può riflettere dentro? It's not possible. No, non è possibile. C'era anche una volta in cui What's that? So also in the times of the Buddha there was some pollution. Oh, if you like to, sure. Natural pollution. Sì, inquinamento naturale. No. Now, the same thing goes when the mind is polluted by the hindrances. A mind which is polluted by the hindrances will not know its own benefits, or a person in whom those hindrances arise will not know his or her own benefits, nor the benefits of others, nor the benefits of both. E quindi allo stesso modo una mente inquinata dai difetti mentali o da questi ostacoli non riconoscerà né i suoi benefici, né i benefici di un'altra persona, né i benefici di entrambi. And it can be followed from what has been said so far, in the absence of the hindrances, when a retreatant has gone beyond the hindrances, then he or she sees what is beneficial to oneself, to others, and both. Viceversa, quando una mente invece è libera da questi inquinanti mentali, allora quella persona potrà vedere facilmente i benefici, ciò che è di beneficio per se stesso, per gli altri e per entrambi. No, the Buddha has certainly compared those five hindrances in a different way to gold which is impaired by various other metals and therefore doesn't shine properly. And those metals are iron, copper, tin, lead and silver. So that kind of gold, which is impaired by other metals, cannot be worked with well. However, and so, or just like that, a mind that suddenly is impaired by the hindrances, with that kind of mind you cannot work properly. Un altro paragone offerto dal Buddha è come di un metallo prezioso come l'oro, che è in qualche modo contaminato, diciamo così, da altri metalli. E anche lì ne elenca 5, adesso non ricordo, comunque magari c'è il ferro, il rame, il bronzo, e non ricordo più quale altri, insomma un oro, un pezzo di oro contaminato con questi altri metalli, beh, è difficile da lavorare. Allo stesso modo una mente che è contaminata da questi altri inquinanti mentali non è malleabile, non si può è difficile lavorarci su. No. The Buddha has given yet another illustration or simile for the five hindrances, and he says that a Brahmin who has learned certain hymns and satya then a long time ago and wants to recite those hymns under the influence of sensual desire, of ill will, sloth and torpor, restlessness and remorse and skeptical doubt, will probably not remember them, or remember them wrongly in incomplete manner. Un altro esempio che fa il Buddha è quello di un bramino che ha imparato a memoria, anzi che deve imparare a memoria degli inni da recitare. Però se la sua mente è condizionata dai 5 ostacoli, quindi se è piena di desideri sensoriali, torpore, irrequietezza, avversione, dubbio scettico, ovviamente avrà molto più difficoltà a ricordare gli inni o a studiarli a memoria. And you can take this certain simile as an illustration how the hindrances actually hinder the mind from functioning properly. E possiamo usare questo esempio per capire come questi ostacoli impediscano alla mente di funzionare in modo appropriato. To highlight this particular point, when the mind is under big influence of anger, let's say you're really angry with another person, and you need to talk to this other person. What happens to your speech? E quindi prendiamo ad esempio l'ostacolo della rabbia. Allora una persona è veramente presa da la mente di una persona è presa da rabbia. Quando nei confronti di un'altra persona, quando si trova a parlare con quest'altra persona, che tipo di linguaggio avrà? Violent. And does that a person under the influence of great anger, can he or she still complete sentences properly? Speak clearly? La persona che è condizionata da questa rabbia riesce a parlare chiaramente, a completare le sue frasi? Anche sì, ma comunque violentemente. He might, but still, in a violent way. Oftentimes what happens, that speech becomes garbled, and the person might be repeating the same thing over and over again. Spesso il linguaggio diventa un po', come dire, confuso, ingarbugliato, e la persona ripete le stesse cose, no? No. The five hindrances certainly concern us only during the meditation practice. Would this be correct to state? Sarebbe giusto dire che i 5 ostacoli ci tormentano, diciamo, solo durante la pratica? You're saying no? Why not? Also in your daily life. If not, we wouldn't be here. Good. Yeah, good. What's that? We get a vaccination. That's a way of looking at it, sure. Yeah. So, the hindrances occur not only during intensive practice, but they very much also occur outside of intensive practice. And many years ago, some American psychologists even wrote a small booklet on the hindrances in a relationship. Mm. Sì, purtroppo questi ostacoli si presentano anche nella nostra vita fuori da un ritiro intensivo, e c'è stato uno psicologo americano che ha scritto un libro intitolato proprio gli ostacoli nelle relazioni. It was a small book that published by the Buddhist Publication Society. Un libro pubblicato dal Buddhist Publication Society, quindi con un taglio ovviamente di Dharma. Now, the opportunity that we have, you know, during an intensive Futnu retreat is, with regard to those hindrances, that when they come up, we have a chance to carefully observe them, to learn and study how they are operating, how they're influencing the mind, how they're giving us sudden trouble, and then we also learn how to overcome them. Quindi l'opportunità che ci viene offerta durante un ritiro è di osservare questi ostacoli quando sorgono, vedere come influenzano la nostra mente, come ci disturbano, e anche imparare dei modi per superarli. And the hindrances, just to add one more quality, they also prevent a person from realizing Nibbana. E per aggiungere un altro dei problemi legati agli ostacoli è che impediscono alla persona di raggiungere il Nibbana. Now, the situation is not hopeless. We have this possibility to work with the hindrances and actually purify the mind of them. Però abbiamo, la situazione non è così disperata, abbiamo questa opportunità di lavorare con i cinque ostacoli e di purificare la mente. For instance, with regard to the hindrance of restlessness and remorse, the Buddha says, abandoning restlessness and remorse, one abides unagitated with a mind inwardly peaceful. Il Buddha dice che quando una persona riesce a superare questo ostacolo dell'irrequietezza e del rimorso, allora la persona dimora guardando verso l'interno ed in uno stato di pace, di tranquillità. The hindrances, to be more specific, occur during the very first few days of a retreat, and then they occurred later on during the third insight knowledge, and in particular during the phase when much dukkha arises, and once again later on in the 10th insight knowledge they come up again in a very vivid manner. Quindi, per essere più precisi, questi ostacoli sorgono i primi giorni di un ritiro, sicuramente, e poi nella terza conoscenza dell'insight, poi di nuovo si ripresentano durante la fase cosiddetta di dukkha, cioè di fase di sofferenza, diciamo, gli insights di sofferenza, e poi si ripresentano ancora nel decimo insight. Questo per chi conosce un po'. Now, we won't have the time to go into all of the hindrances, and therefore allow me to focus on the hindrance of restlessness and remorse, to first explain this double hindrance, and then to show how to overcome it. Quindi, siccome non avremo il tempo di analizzare tutti i cinque ostacoli, prenderemo solo questo doppio ostacolo dell'irrequietezza e del rimorso, lo analizzeremo, vi spiegherò un po' in cosa consiste e darò dei consigli su come superarlo. No. How do we experience sudden restlessness? Restlessness of mind, namely as a mind going here and there, flitting from object to object, and heart being unable to settle on one object. Quindi come facciamo esperienza di una mente irrequieta? Beh, è una mente che va di qua e di là, che si sposta velocemente da un oggetto all'altro, è una mente incapace di come dire, di stabilizzarsi su un oggetto di osservazione. And such a restless or a mind under the influence of Satna restlessness at times will go into the future, at times it will go into the past, at times being in a meditation retreat it will think about work related issues and so on. Quindi una mente che è influenzata da questo stato mentale dell'irrequietezza spesso si troverà o nel passato o nel presente o nel futuro, scusate, oppure durante un ritiro spesso magari andrà a pensare a delle questioni relative al proprio lavoro. And in the case of remorse or worry, kukucha in body, thoughts come up, oh, why did I do a certain unwholesome deed in the past? Why did I say something unskillful in the past? And one then has remorse over it. Per quanto riguarda invece il rimorso, i pensieri sono del tipo, ah, perché ho fatto questa cosa nel passato? Perché mi sono comportato così in quella situazione, in quell'occasione? E quindi si presenta questa forma di rimorso nella mente. No. The classical fourfold definition for restlessness is as follows. Its characteristic is given as being disquietude of the mind. Quindi per usare questa, come dire, descrizione divisa in quattro parti, no, degli stati mentali, quindi la prima è la manifestazione, scusate, la caratteristica, quindi la caratteristica dell'irrequietezza è una mente non in pace. And so, the simile, that is simile illustration that is given in this context, as Tetna stated earlier on, the mind, a restless mind, is like water whipped up by the wind. E la similitudine che possiamo usare, come abbiamo già detto precedentemente, è quella dell'acqua che è mossa dal vento. Now, see, each and every mental state performs a particular function. And so in the case of restlessness, its function is to make the mind unsteady. That's it. Unsteady. So it makes the mind unsteady, whereas the mental state of calmness, of tranquility, has the function of crushing the disquietude. Quindi ogni stato mentale viene con una particolare funzione. Questa è un'altra dei modi di descrivere, diciamo, uno stato mentale. La funzione dell'irrequietezza è quella di rendere la mente non stabile, diciamo. Mentre invece l'opposto, cioè la calma, ha la funzione di annullare, diciamo, la mente che non è in pace, quindi esattamente il contrario. And so you will surely have experienced great restlessness at some point or another in your life. And then you might be able to relate to the manifestation given for restlessness, namely as turmoil. Allora, sicuramente avete sperimentato una grande irrequietezza in qualche occasione nella vostra vita e quindi potete comprendere la manifestazione dell'irrequietezza che si può tradurre come turmoil, agitazione, direi. Turmoil, chaos. Sì, agitazione, caos. Italiano è difficile, è proprio la traduzione esatta. No, sbagliano. Turmoil è una cosa che non è inquietudine, forse è la parola più giusta. And so the nearest cause or the proximate cause that contributes to the arising of restlessness, the Buddha gives as unwise attention. And unwise attention in the sense that we allow the mind to be restless. We think this is quite okay to have this kind of a state of mind. And so it will then go on. And whereas wise attention would be recognizing, oh, the mind is in an agitated state, this is not going to be beneficial to myself nor to others, and therefore working with it and trying to abandon it. Invece come causa prossima che fa sorgere l'irrequietezza viene indicata la non saggia attenzione. Per non saggia attenzione si intende quando uno pensa che sì, c'è l'irrequietezza, ma non è poi una cosa così grave, è una cosa abbastanza normale, quindi la si accetta, non si prendono provvedimenti, diciamo. Viceversa, una saggia attenzione significa riconoscere che c'è l'irrequietezza e riconosce che non è di beneficio né per se stessa né per gli altri, e quindi si cerca di trasformarla in uno stato salutare. Now, the Buddha has given 5 very precise sutta instructions on how to deal with restlessness. Quindi il Buddha ha dato 5 istruzioni molto precise su come affrontare l'irrequietezza. And those we find in the Satipatthana Sutta. E le troviamo proprio nel Satipatthana Sutta. If restlessness is present in oneself, one knows there is restlessness in me. Se si presenta l'irrequietezza, la persona riconosce c'è l'irrequietezza dentro di me. If restlessness and remorse are not present, one knows that both of them are not present. Se non sono presenti, la persona sa che non sono presenti l'irrequietezza e il rimorso. Then the third instruction is one knows how unarisen restlessness and remorse can arise. Poi la terza istruzione è che una persona sa come la irrequietezza e rimorso che non sono ancora sorti potrebbero sorgere. And then number 4, how arisen restlessness can be removed, restlessness and remorse. E il quarto è la persona sa come la irrequietezza e rimorso che sono già sorti possono essere tolti, possono essere eliminati. Mm-hmm. And how a future arising of restlessness and remorse can be prevented. E come invece può essere prevenuto il sorgere dell'irrequietezza e rimorso. Now, the first two instructions are basically about knowing the presence or absence condition with regard to restlessness and remorse. Quindi le prime due istruzioni semplicemente riguardano la capacità di riconoscere la presenza o l'assenza di questi stati mentali, no? Dell'irrequietezza e rimorso. No. A non-meditator may not even realize that he or she is restless. Mm. And may think this current restless state is quite normal. Mm. Una persona che non medita può non accorgersi neanche della presenza di questo stato mentale, dell'irrequietezza. Può prenderlo come uno stato normale, naturale della mente. If, however, one starts to know that one is that the mind is actually in a restless state and overcome by worries, by regret, then this opens up a path towards overcoming the restlessness and remorse. Invece, se una persona riesce a riconoscere o a vedere che nella mente c'è molta preoccupazione, c'è molta irrequietezza o rimorso, allora il fatto stesso di riconoscere questo stato quindi apre una nuova via verso il superamento di questo stato. And being aware of the presence of restlessness also means that one, or could mean that one, is to some extent at least aware of the consequences of a restless mind. Quindi essere consapevoli della presenza dell'irrequietezza significa anche essere consapevoli delle conseguenze di una mente irrequieta. And In the same way, being aware of the absence of restlessness, in other words, tranquility is there, one can then expect the mind to most likely move on from tranquility on to happiness, and from happiness on to concentration, and from concentration possibly even to intuitive wisdom. Invece, viceversa, quando uno è consapevole di una mente priva di irrequietezza, libera dall'irrequietezza, uno può aspettarsi che da questo derivi la calma della mente, e poi dalla calma si può arrivare alla felicità, poi dalla felicità alla concentrazione e avanti così fino ad arrivare alla conoscenza intuitiva, alla saggezza intuitiva. Now, the third of those five instructions means, if restlessness is arising, one knows the conditions that lead to its arising. La terza istruzione è che se una persona riconosce che questa irrequietezza sta sorgendo, capisce anche quali sono le cause che fanno sorgere questa irrequietezza. And if restlessness and remorse are present, then one knows the conditions that lead to the removal of those two states. E se invece l'irrequietezza e il rimorso sono già sorti, uno conosce le condizioni che fanno sì che invece queste irrequietezze e rimorso se ne vadano. And finally, if restlessness and remorse have been temporarily removed, one will know the condition for a total, a permanent abandoning of those two states. E come ultima istruzione, se la persona riconosce o è consapevole che l'irrequietezza e il rimorso sono stati in qualche modo allontanati dalla mente, eliminati dalla mente, sa come farli restare fuori dalla mente per sempre, cioè non tornare nella mente. No, you will all have had some experiences around restlessness and sudden remorse. Could you give a reason or causes for the arising of restlessness and remorse? Are there certain factors that triggered restlessness, and if so, what are they? Avete tutti sicuramente sperimentato una mente con irrequietezza e rimorso. Potete dire quali sono le cause, cos'è che la causa scatenante che fa sorgere questo stato mentale? Any answers? Ci sono delle risposte? Beh, l'ansia principalmente. Scusa, forse qualcuno... Unsatisfaction. You can say this, yes. And he said anxiety. Anxiety, yes, okay. Confusion. No, that might also contribute, sure. Può contribuire anche la confusione. Mm. And what about... Not knowing where you're going. Ah, this is, okay, sure. And what about the effort? Excessive effort? Anche lo sforzo eccessivo. So, from a practical point of view, retreatants find if they put in too much effort, they get restless. Da un punto di vista proprio pratico, diciamo, della pratica, se un meditante mette troppo sforzo nella pratica, spesso questo risulta in una eccessiva irrequietezza. And so, then the Anguttara Nikaya gives one more cause, namely it says provocative talk. So, conversation with another person, and that other person brings up unwanted topic. L'Anguttara Nikaya indica un'altra causa che sta nei discorsi provocatori, nel senso che uno parla con qualcuno e quest'altra persona è come se stimolasse magari degli argomenti controversi, diciamo. Mm-hmm. She doesn't understand how excessive effort can lead to restlessness. Well, you're putting in so much effort into your practice, but you're not getting anywhere. No, and suddenly, then, as a result of this, the body and mind just can't take it anymore, and suddenly, then, the restlessness happens. That's just the way it is. Uno mette molto sforzo nell'osservare, no, nella pratica, però sente che non sta arrivando da nessuna parte, e allora questo porta a creare un'agitazione nella mente. Funziona così, insomma. Let's say if you try to achieve some task and you make a huge effort, however you're not suddenly succeeding, then you might sooner or later get restless. Per esempio, se tu hai un compito da svolgere e metti un grosso sforzo per svolgere questo compito, ma non riesci in qualche modo a portarlo a termine, allora questo potrebbe, cioè molto spesso questo porta ad avere agitazione o irrequietezza. No. So he says, so we'll get into that at a later point. Ci arriveremo, dice poi, ne parlerà. So then, one more cause that was mentioned already was unwise attention towards restlessness. Quindi l'altra causa che di cui abbiamo parlato prima era un'attenzione non saggia. And so in the case of remorse or worry, possible causes here are remembering something or events of saying or doing something unwholesome in the past and then regretting it, or having missed to perform a wholesome deed and regretting that too. Per quanto riguarda il rimorso, come abbiamo detto, potrebbe sorgere nella mente un ricordo di qualcosa che abbiamo fatto nel passato e di cui ci pentiamo, oppure il fatto di non aver colto l'occasione per poter fare invece qualcosa di salutare nel nostro passato. Now, the Buddha has one neat passage in the Samyutta Nikaya that speaks about unwise attention. Quindi c'è nel Samyutta Nikaya proprio un passaggio in cui il Buddha spiega cosa intende per questa attenzione non saggia. Namely, he says, and what is the nutriment for the arising of unarisen restlessness and remorse, and for the increase and the expansion of arisen restlessness and remorse? E quindi qual è la causa o il nutrimento, diciamo, che provoca il sorgere dell'irrequietezza e rimorso, e cos'è la causa o il nutrimento che fa sì che l'irrequietezza che è già sorta aumenti, si espanda? And then the Buddha goes on, there is unsettledness of mind, frequently giving careless attention to it, so not giving proper attention to it, is the nutriment for the arising of unarisen restlessness and remorse, and for the increase and expansion of arisen restlessness and remorse. Quindi quello che causa, che dà nutrimento all'irrequietezza che non è sorta o che la mantiene in vita, che la fa sviluppare, è una non saggia attenzione rispetto alla mente, e questo fa sì che la mente non sia stabile. No, a practical example for restlessness in one's meditation practice. one sits in the hall together with others, and so, then maybe 10 minutes, 15 minutes have gone by, and a thought crosses the mind. Let's see whether the other retreatants are practicing properly. And your eyes fly open, and your head turns to the left, turns to the right. And so then you decide, oh, you also need to check the time, so you check the time. And so then maybe a few moments later you close your eyes, and so then maybe 5 minutes later you remember you have to write something down, so you open your eyes, you open the notebook, you take a ballpen, you write, and so on and so forth. Quindi un esempio di come dire che you go outside, you come back, you get up a second time, and so on. Un esempio di come si presenta l'irrequietezza durante una seduta, per esempio. Allora uno sta lì a osservare l'addome che si alza e si abbassa, poi dice, ma chissà gli altri se stanno meditando bene. Allora apre gli occhi, guarda a destra, guarda a sinistra, poi di nuovo chiude gli occhi, dice, ma chissà che ore sono. Apre di nuovo gli occhi, guarda l'ora, poi dice, ah sì, devo scrivere questa cosa per il colloquio, allora apre il quaderno, scrive qualcosa, dice, ma così quasi esco un attimino, no, scappa a pipì, magari poi torna dentro, insomma, questa è una mente agitata. And you could even add, such a retreatant will, then some itching sensation will arise somewhere, and then immediately the hand goes like this. Poi magari sorge un prurito, allora la mente va, sì, la mente, scusate, il braccio si muove per grattare. So, not suddenly paying wise attention to this, to these various certain activities, that encourages more restlessness. Quindi il non prestare attenzione a tutti questi movimenti, a queste azioni, diciamo, questo fa sì che l'irrequietezza aumenti. And wise attention then makes all the difference. If one realizes, well, if I keep on moving around, fidgeting, opening the eyes, closing the eyes, etc., I won't get very far in my practice. And suddenly, then one makes an effort to be mindful and so, to stop this restlessness. E quindi cos'è invece la saggia attenzione? Uno si rende conto che il fatto di muoversi in continuazione, di fare questo, di fare quest'altro, non lo porta da nessuna parte, e allora si impegna, diciamo, a sviluppare maggior consapevolezza e presenza mentale. No, for the sake of completion, the classical definition of remorse is as having the characteristic of subsequent regret. So one performs an unwholesome deed, and then there's subsequent regret. E quindi di nuovo per definire un po' meglio il rimorso, secondo la tipica classificazione, allora la caratteristica del rimorso è appunto subsequent regret. Perché in italiano rimorso rimpianto, si può dire, un rimpianto ripetuto di qualcosa che si è fatto nel passato. And the function of restlessness was certainly to make the mind unsteady, and in the case of remorse, the function is to cause sorrow over what has and what has not been done. Quindi, se vi ricordate, la funzione dell'irrequietezza era quella di rendere la mente instabile, invece la funzione del rimorso è quella di creare della tristezza nella mente per ciò che non è stato fatto o ciò che è stato fatto. And the manifestation is simply as remorse. E la sua manifestazione è semplicemente come rimorso. And the approximate cause for this remorse is an act of omission, of commission or omission. E la causa prossima di questo rimorso è un atto di commission of some wrong action, sì, or omission of a wholesome deed. Quindi aver fatto, diciamo, un'azione non salutare, oppure il fatto di non aver fatto un'azione salutare. No. Detto giusto. When restlessness and tadna, remorse, have arisen, then it's high time to apply mindfulness and to start labeling the restlessness and tadna, remorse accordingly, and tadna, then to observe it in an objective manner, not identifying with it and observing it with as much or with a rather detached state of mind. Quindi quando ci accorgiamo che sorgono nella nostra mente agitazione e rimorso, ecco che è il momento per sviluppare la consapevolezza e osservare questo fenomeno con distacco e senza identificazione, in maniera oggettiva. A number of other ways of dealing with restlessness have been mentioned in the commentary, and out of those to mention just a few: association with a noble friend, and ideally that noble friend will be a very calm and settled person. Nel commentario danno un'altra serie di consigli per superare questo stato mentale dell'irrequietezza, e uno di questi è l'associarsi o il frequentare persone o amici nobili, e per amici nobili si intende amici calmi fondamentalmente. And then in questo senso possibly also to hear a discourse on this particular hindrance, oppure di sentire un discorso su questo particolare ostacolo. No. It is certain with mindfulness, or it is unwise attention with regard to restlessness and remorse, that is the cause for its arising. It is mindfulness that satna then is the cause for a temporary removing of restlessness and remorse. Quindi abbiamo visto che è la non saggia attenzione la causa del sorgere dell'irrequietezza e rimorso, invece la consapevolezza è la causa per una temporanea rimozione di questo stato. And so it is certainly the attainment or realization of the fourth path, namely of arahanship, of becoming a holy one, with which restlessness will be totally cut off or eradicated from the stream of consciousness, and certainly then just don't exist anymore. And in the case of worry, this gets eradicated from the stream of consciousness with the attainment of the third path, the path of non-return. Quindi è solo al quarto stadio, diciamo, dell'illuminazione, quindi lo stato di Arahant, che l'irrequietezza viene completamente sradicata dal flusso della coscienza. Per quanto riguarda invece la preoccupazione, è nel terzo stadio di illuminazione, cioè quello di colui che non ritorna, per capirci, che viene sradicata dal flusso della coscienza questo stato mentale. Now, having suffered from much restlessness and having managed to overcome it, to at least temporarily abandon it, then some wholesome results can be expected, namely the arising of gladness. And from a psychological point of view, this is pretty obvious. Once you've managed to let go of the restlessness, then there is reason for joy. Quando riusciamo a sviluppare la consapevolezza, riusciamo almeno temporaneamente a eliminare questo ostacolo, superare questo ostacolo dell'irrequietezza nella mente, allora l'effetto sarà la contentezza, e questo è comprensibile anche da un punto di vista psicologico, e ci sarà sicuramente questo stato di gioia quando la mente non è più in preda all'irrequietezza, alla preoccupazione. Mm. And the gladness then tends to lead, which gladness, which is a form of fetna, weak joy, that then tends to lead on to the arising of joy, so stronger. The joy in turn, then prepares the ground for the arising of stillness of the body as well as the stillness of the mind. So in other words, calmness comes up. Mm. Quindi questa contentezza poi produrrà uno stato di gioia nella mente e la gioia a sua volta condurrà a una quiete nella mente e nel corpo e quindi una calma mentale. Mm. And so that in turn then typically will be accompanied by the rising of clarity in one stream of consciousness. E questo poi porterà allo sviluppo della chiarezza nel proprio flusso di coscienza. Now, as mentioned during the earlier part of the talk, having to deal with a hindrance such as restlessness requires that one exerts oneself in many different ways, and the result of this is a stronger mind. E quindi, come abbiamo detto, il fatto di dover affrontare questo stato mentale difficile dell'irrequietezza fa sì che uno debba sforzarsi in un certo modo e questo, di conseguenza, produrrà una mente più forte. So a mind certainly in which effort has strengthened, mindfulness has strengthened, concentration also has strengthened. Oh, sorry, I didn't get the first part. Oh, I'm saying, it's a mind then in which effort has been strengthened, concentrated, and effort, mindfulness and concentration have been strengthened. E quindi si sono rafforzati in questo modo lo sforzo, la consapevolezza e la concentrazione. And when calmness, stillness are there, then, or are being experienced, then one realizes how bad actually that restlessness is. E quando si arriva a sviluppare questo stato di quiete e di calma nella mente, allora uno si rende conto di quanto fosse non salutare, diciamo, l'irrequietezza, quell'altro stato precedente. And so with this contrast between the unwholesome restlessness and the wholesome tranquility or calmness, this difference between this unwholesome mental state of restlessness and the wholesome state of calmness becomes very clear. E quindi, facendo questo paragone, allora il contrasto, cioè i benefici di uno e i problemi, no, che derivano dall'altro, diventa molto chiaro. Quindi i benefici dello stato mentale positivo, ovviamente la calma e la quiete, e invece i problemi che derivano da uno stato mentale irrequieto, questi diventano evidenti. And so with this, the mind then will naturally incline towards more and more tranquility. E con questo la mente si dirigerà sempre più verso uno stato di tranquillità. Oh, it doesn't mean that restlessness will not arise anymore, not at all. It will still come up on occasion, but in general, the mind certainly will clearly have a preference for the arising of tranquillity. Questo non significa che non sorgerà più l'irrequietezza, continuerà a sorgere, però la mente in maniera molto naturale e spontanea tenderà verso uno stato di tranquillità. And so, the classical definition of tranquility then is as having the characteristic of the quieting down of the disturbances in the mind. Quindi la caratteristica della tranquillità è di possedere questa qualità del acquietare, si dice, i disturbi della mente, tranquillizzare tutti gli elementi di disturbo della mente. Mm. And its function is certainly the crushing of such disturbances. Quindi la funzione è la crushing, per l'eliminazione, la distruzione di questi disturbi. And that it is manifested as coolness and peacefulness. E la manifestazione invece è la freschezza e la pace. And suddenly then the mental body and consciousness are given as the proximate cause for tranquility. The mental body, which means the body of mental states, actually. Quindi come causa prossima viene data la il corpo degli stati mentali, traduco letteralmente, no? Il corpo della mente, insomma, come gli stati mentali prendono corpo. There you go. And so now what we have here is, at first of the retreat, and comes across and has to deal with this hindrance of double hindrance of restlessness and remorse, then applies mindfulness to it as much as possible in other ways, gradually then manages to overcome the restlessness and remorse, and out of this then the opposite state in the form of tranquility has a chance to arise. E quindi queste sono le varie fasi. Prima ci si rende conto della presenza dell'irrequietezza e rimorso nella mente, poi si applica la consapevolezza di questo stato. Grazie alla consapevolezza l'irrequietezza e il rimorso vengono superati e di conseguenza c'è il sorgere del suo opposto, cioè della tranquillità e della calma nella mente. And certainly the very arising of tranquility, especially as an imperfection of insight, so that's a little bit later in the practice, comes along with the arising of a number of other wholesome mental states, such as lightness of the mind, lahuta, and certainly the malleability of the mind, mudita, the proficiency of the mind, bhagunyata, as well as the rectitude of the mind, ujjukata. You might have to repeat those ones. Quindi quando si raggiunge questo stato di tranquillità nella mente, ecco, questo stato di tranquillità è accompagnato da altre qualità, da altri fattori, che sono la leggerezza della mente, la malleabilità della mente, la proficiency. E la competenza, si può dire, della mente, una mente funzionale, competente. And then there's still one more, wieldiness of the mind, kambanyata. Wieldiness è un po' come, l'ho già detto, malleability and wieldiness. The mind is agile. La mente agile diventa più agile. And the last one is rectitude of the mind, ujjukata. E poi c'è la rettitudine nella mente. So this then pretty much brings us to the end of today's Satna Dhamma talk on the hindrances and transforming, in particular one, in this case, the hindrance of restlessness and remorse. And allow me to wish, and may you now have, at least theoretically, a better understanding of what the hindrances are all about, and that may you see the hindrances as not only negative, destructive, but also see the potential that comes with dealing with the hindrances, and may you succeed in transforming each and every hindrance that comes along into its opposite. Quindi concludo il discorso augurandovi di aver capito un po' di più rispetto a questi ostacoli nella mente e che possiate vederli non solo in un senso negativo ma anche come un potenziale, diciamo un'occasione per poter appunto migliorare la vostra pratica e che possiate trasformare questi ostacoli, questi inquinanti mentali nel loro opposto. And certainly when the wholesome mental states certainly then have arisen, may they lead you on to the arising of much intuitive and ultimately liberating wisdom. E una volta che sono sorti nella vostra mente gli stati mentali salutari, che questi possano condurvi verso una sempre maggiore chiarezza e saggezza intuitiva inizialmente e poi verso quella definitiva. Ok, and that's it. Sadhu, sadhu, sadhu. A brief question answer for that one question about the excessive effort and right effort. So, Yara, in terms of your excessive effort and right effort, right effort is with practice, gradually we learn to find out what is right effort. Namely, through trial and error. So at times, we put in too much effort, so we sit for 2 hours in a row, 3 hours in a row, but we realize this is not working, and we get all restless. At other times, we put in very little effort, we don't show up in the hall at all, and instead spend the day sleeping, and so that's sadhana not working either. And eventually, a retreatant sadhana realizes, okay, it takes this much effort. And it's just by actually doing the practice. Per quanto riguarda la domanda sul giusto sforzo, sul retto sforzo, viene un pochino con la pratica. Un meditante deve trovare un pochino l'equilibrio rispetto allo sforzo. Potrebbe essere eccessivo quando uno magari ha molte aspettative oppure sta seduto 2-3 ore e cerca di raggiungere degli stati particolari, allora in quel caso la mente appunto diventa molto agitata ed è... come dire, non salutare come tipo di sforzo. Viceversa, invece, potrebbe esserci una certa pigrizia, essere troppo rilassati, arrivare tardi in sala o restare di più a letto a dormire. In questo caso, ovviamente, ce n'è troppo poco di sforzo. Quindi, dice Bhante, è con l'esercizio, con prove ed errori, diciamo, che uno riesce a trovare la giusta via, insomma. La giusta dimensione, il giusto sforzo. And that's just something you have to work on. Ed è una cosa su cui uno deve esercitarsi, insomma, su cui deve lavorare. But then it's for everyone to, questo to vale work. Per tutti, ovviamente. Okay. Anything else? There's another question. So for her, it's a big effort to follow these rhythms because she's a hyperactive person. And so she said that today she just couldn't take it any longer. And so she went for a fast walk. And then, she had remorse. She regretted it and says, oh, did I do the right thing? I shouldn't have gone, etc. So that's why she was asking. And so you just keep trying. keep trying to slow down and just every day a little bit more and gradually you get it. So continua a provare un po' a rallentare, ogni giorno un po' di più, prima o poi ci riuscirai. I think Dario has the mind can be trained. Perché la mente può essere addestrata, diciamo. No, Dario. Senso di colpa, mi sembra che possa esserci anche un'altra soluzione, cioè il perdono, il inviare dell'amore nei confronti di se stesso, che può risolvere il problema in un altro modo. Cioè, secondo me il perdonarsi, questa è una categoria ovviamente cristiana, può risolvere determinate situazioni, magari di sentimenti molto più profondi, che a un certo punto portano la stessa condizione di pace in confronto. So, he's saying that maybe in the case of remorse, even an attitude of forgiveness towards oneself or towards others, this might be of help. Might help to find forgiveness, that peace. Repenting, admitting to others. He said, or asking forgive. For forgiveness. Ask for forgiveness, or even forgiving oneself for having done something wrong. Mm. In a way, developing this sense of forgiveness for yourself and for others. Is the Buddha clearly recognize the asking others for forgiveness, and then there's for any wrong doing. And then there's an additional point with remorse, namely for oneself to forgive oneself, and then to make a resolution, this kind of thing I will not do again in the future. And so now then you turn it into something positive. Il Buddha dà indicazioni molto chiare rispetto al chiedere perdono per una cosa fatta ad altri. E anche il fatto di, se uno riconosce di aver fatto qualcosa di sbagliato, di prendere un impegno con se stesso o se stessa di non compiere più quell'azione. And so the Buddha indeed does praise those who admit their mistakes to others and ask for forgiveness. He very much praises this. Il Buddha come dire esprime lode, come si può dire in italiano, riconosce, no, apprezza le persone che hanno la capacità di ammettere i propri torti o le cose sbagliate che hanno fatto e che hanno la capacità di chiedere perdono agli altri. Quando è nei confronti di se stessi, cioè noi abbiamo la categoria del senso di colpa. Yes, he also mentioned guilt, feeling guilty. Dario, having this sense of guilt and regretting what one had, the wrong deeds that done in the past, for having missed to do wholesome deeds, if those things keep coming up in the mind, then it's clearly unwholesome. And that's what the mind had, what the Buddha had in mind with his definition of the mental state of remorse. And and then obviously one needs to go beyond that. Ovviamente se questo senso di colpa continua a ripresentarsi nella mente, quindi diventa molto presente, è proprio questo che intendeva il Buddha quando parlava di questo stato mentale che è sicuramente non salutare e che quindi bisogna superare, insomma bisogna andare oltre. The remorse is oftentimes mentioned together with restlessness, because both of them lead to an agitation of the mind. E spesso il rimorso è proprio associato, no, come nei cinque sacri, associato all'irrequietezza, perché entrambi questi stati portano ad una agitazione nella mente. Okay, maybe this much for tonight.